Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, abbiamo ricordato venerdì scorso il centenario della nascita di Aldo Moro, lo statista democristiano pugliese di Maglie che fu ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio del 1978. Moro fu certamente un protagonista della politica italiana del dopoguerra, uno dei cavalli di razza della Prima Repubblica, un esponente autorevolissimo della Democrazia Cristiana di cui fu anche segretario politico e presidente, ma soprattutto Moro fu l'artefice di due importanti svolte politiche. Prima il centro-sinistra, e infatti fu il presidente del Consiglio del primo governo organico di centro-sinistra assieme ai socialisti di Pietro Nenni. Poi fu l'artefice del governo di solidarietà nazionale col Partito Comunista in maggioranza. E proprio il giorno in cui il governo di solidarietà nazionale, guidato da Giulio Andreotti, si presentava alla Camera, Moro venne rapito il 16 marzo del 78 in un agguato in cui furono uccisi i 5 uomini della scorta. Iniziò una lunga prigionia durata appunto fino al tragico esito che segnò la politica italiana e vide una straordinaria partecipazione della stessa politica, dell'opinione pubblica al dibattito se si dovesse accettare, come volevano i socialisti, una trattativa coi brigatisti o meno, come invece insistevano i comunisti. Insomma, Moro è stata una figura centrale nella storia d'Italia alla quale dedico un importante studio lo storico Guido Formigoni, che è esperto in particolare sulla presenza dei cattolici in politica. Il libro si intitola Aldo Moro, lo statista e il suo dramma, è pubblicato dal Mulino, 486 pagine, 28 euro. E Formigoni ricorda fin dalle prime righe del suo libro, oltre naturalmente all'importanza di Moro, una sua caratteristica, quella di essere stato un personaggio molto controverso. Moro ebbe in vita estimatori senza riserve e detrattori accaniti, scrive. E questo naturalmente si riflette sull'immagine che di Moro è stata costruita e sul giudizio che magari ancora oggi se ne dà. Dall'immagine del demiurgo, scrive l'autore, dell'allargamento della democrazia, del grande mediatore civile o almeno del Giolitti cattolico, dell'uomo capace di cogliere i cambiamenti essenziali nel paese, si è passati a quelle del cinico conservatore trasformista, dell'involuto e oscuro custode degli arcani del potere, del pigro e levantino insabbiatore di ogni processo innovativo. E allora su questo sentiamo l'autore. Buonasera Guido Formigoni. Buonasera. Guido Formigoni, ricordavo poco fa come lei nel suo libro scriva che Aldo Moro è stato oggetto di giudizi spesso molto contrastanti, addirittura in certi casi contraddittori. Ecco, lei che idea si è fatta di Moro? Qual è il suo giudizio su Aldo Moro? Ma era una persona che sicuramente aveva un'idea di politica piuttosto alta, a cui si è dedicato per tutta la vita, che pensava alla politica come un compito collettivo, quindi era all'interno di un percorso partitico e di collegamenti con altre persone, ed era anche una persona mite, sicuramente portata a non affermarsi. Oggi potrebbe essere considerato un po' grigio, qualcuno lo ha sempre ritenuto lento, ma questo era in fondo un po' il suo modo di leadership, che era mirato a far emergere lentamente il consenso più che non a imporre un punto di vista. E lei ricorda che la prima occasione per manifestare il proprio cume politico per Aldo Moro fu da giovanissimo ancora il ruolo che ebbe alla Costituente, dove in particolare lei scrive difese un punto di incontro tra cultura cattolica laica e marxista, in particolare sull'aspetto che riguardava il ruolo dell'individuo e dello Stato, della persona, come avrebbe detto Moro, e dello Stato. Lì la questione era molto delicata, perché quando i costituenti eletti il 2 giugno si trovarono, la pista su cui mettere i lavori non era stata così chiaramente individuata e quindi si discusse molto. Occorre dare un'ideologia a questo testo, occorre trovare una cultura comune. C'erano i liberali, sia tradizionali, conservatori, che anche quelli più progressisti del Partito d'Azione, che dicevano: no, facciamo solo una costituzione di regole. Moro e lui con altri, Dossetti, il suo gruppo, difese invece quest'idea che ci voleva una cultura comune, se possibile, e riuscì a farla venire fuori, insomma, intorno a questo concetto di persona, che significava il primato dell'essere umano rispetto allo Stato, quindi in senso antitotalitario e antifascista, ma anche la considerazione di tutti i legami delle persone e di tutti i diritti anche delle realtà associate. E su questo punto ottenne un po' di apertura anche appunto dalle sinistre marxiste, che in qualche modo potevano trovare anche la valorizzazione dell'idea di lavoro e dell'idea di collettività sociale, insomma. Lei ha citato Dossetti, e proprio in un paragrafo dedicato al lavoro di Moro alla Costituente, lei scrive: dossettiano e un po' de gasperiano. Che anima prevaleva in Moro in quegli anni? Io penso che fosse molto dossettiano sull'idea che in fondo, dopo aver approvata la Costituzione, il problema della politica e della democrazia italiana fosse realizzarla, cioè in qualche modo andare nella direzione disegnata nei primi articoli, quelli programmatici della Costituzione. In questo Moro rimane dossettiano, credo, fino alla fine dei suoi giorni. Però incontra De Gasperi e si fa convincere di una cosa che invece probabilmente non avrebbe mai convinto Dossetti, che era quella che la DC doveva essere naturalmente il perno di questo progetto per realizzare la Costituzione, ma poteva farlo solo se si tirava dietro, per usare un'espressione un po' schematica, il moderatismo italiano, cioè quell'elettorato appunto conservatore, prudente, che non, se si fosse messo di traverso avrebbe impedito questo progetto. De Gasperi questa cosa lo capisce fin dal 47, quando rompe con le sinistre, e Moro in fondo poi rimane convinto di questo, cioè rimane convinto che tutti i passi avanti verso uno Stato sociale eccetera vanno fatti però tirandosi dietro anche l'unità della DC in primo luogo, che voleva dire anche le componenti moderate del sistema. Unità della DC che fu, se non messa a rischio, però comunque fortemente minacciata quando ci fu l'apertura sinistra, il governo di centrosinistra, di cui Moro fu uno dei protagonisti, oltre che il primo presidente del Consiglio. E quello in fondo fu anche un po' uno dei suoi capolavori politici, cioè riuscire a convincere di questa prospettiva di apertura ai socialisti, che non era affatto ovvia, anzi che era osteggiata da buona parte del sistema imprenditoriale, degli alleati americani, della Chiesa stessa. E certamente però quello che tento di ricostruire nel libro, sulla base di una documentazione anche in gran parte inedita, è che questo successo Moro lo pagò a caro prezzo. Insomma, la DC non si ruppe, come giustamente lei ricordava, ma la realizzazione del progetto fu fortemente ostacolata da una serie di sotterranei, come dire, bracci di ferro, da una serie di resistenze, da una serie di tentativi di bloccare questo percorso. E vinsero i bloccatori, perché a parte qualche riforma iniziale, mi sembra che poi lì... Ma su questo mi sto facendo un'idea piuttosto diversa, cioè è vero che non abbiamo ancora uno studio approfondito dei governi Moro, diciamo dal 63 al 68, vanno ancora studiati nel dettaglio. Io naturalmente nell'ottica di questo libro ho potuto dare solo un primo sguardo, ma ho anche l'impressione, mi sono costruito l'impressione che in realtà ci fossero in questi anni una serie di provvedimenti che furono preparati, istruiti, che misero le basi anche poi di una serie di riforme che verranno approvate dopo. Cioè non sono anni sterili, sono anni in cui magari non si approvano più le grandi riforme che erano state approvate nel 62, e che alcune delle quali, almeno come la nazionalizzazione dell'energia elettrica, qualche problema sul bilancio dello Stato l'avevano lasciato, però si approva o almeno si istruisce un lavoro più nascosto, sotterraneo, ma molto importante. Se vogliamo fare una citazione, per esempio la legge sulla giusta causa sui licenziamenti, che è un po' anticipazione dello Statuto dei lavoratori, oppure tutto un lavoro sulla riforma del diritto di famiglia e l'uguaglianza tra uomini e donne sulle professioni, che poi sboccerà in provvedimenti qualche anno dopo. L'altra grande stagione di Moro fu quella della solidarietà nazionale. Lei ricorda nel suo libro come ancora nel 1976 Moro sottolineasse con un certo puntiglio le differenze con i comunisti. Che cosa era successo per convincerlo a quella strategia? Sulle differenze lui rimane convinto fino alla fine, potremmo dire, cioè ha l'idea che il Partito Comunista sta facendo un percorso, lo aveva cominciato a notare già dal 69, causando anche molto scandalo all'interno del suo partito, ma che questo percorso è tutt'altro che compiuto. E quindi rispetto alla proposta di Berlinguer del compromesso storico, del tornare alla fase della solidarietà precedente al 47, di fare un governo insieme per intenderci, Moro risponde sempre di no. Quindi il problema è che però questo Partito Comunista è cresciuto elettoralmente. Questo Partito Comunista interpreta, secondo Moro, delle istanze anche magari confuse di rinnovamento che nel paese ci sono. E questo vuol dire che va inserito nella democrazia. Il problema non è fare un governo insieme, ma trovare il modo di responsabilizzare il partito, non tanto, come dicevano anche i suoi colleghi di partito, per logorarlo a metà strada tra governo e opposizione, ma per aiutare il suo rinnovamento, aiutare la sua evoluzione ideologica. Non dimentichiamoci che Moro era anche convinto che a livello internazionale la stagione cosiddetta della distensione stava provocando un grosso movimento che sarebbe stato a lungo andare favorevole all'Occidente, quindi il mondo comunista era fortemente, secondo lui, in discussione. E quindi l'ipotesi era che una fase di non opposizione del Partito Comunista, quindi appunto i governi famosi della non sfiducia di Andreotti e poi l'ingresso in maggioranza ma non nel governo, potessero aiutare questo processo di evoluzione ideologica e politica del partito. E poi ci furono le settimane tragiche della prigionia. Qui lei parla di domande ancora irrisolte, alle quali hanno contribuito anche i brigatisti. In che senso? Ma nel senso che i brigatisti che sono stati individuati, condannati, processati, alcuni di loro hanno scontato la loro pena e sono persone libere, non hanno certamente raccontato tutta la verità. Questo per una serie di inoppugnabili dati di fatto lo si può sostenere. Di qui a dire che si può ricostruire una verità alternativa, credo che sia ovviamente molto difficile. Ci sono delle ipotesi, ci sono dei tentativi di capire quello che in realtà è successo, ma la via maestra sarebbe che appunto questo mondo dei protagonisti, delle versioni, dei rapitori di Moro si decidesse a raccontare un pochino di più la verità. Questo mi sembra il punto più ancora scoperto, il nodo più critico rispetto all'interpretazione di quel periodo. E studiandolo, la sorpresa, il Moro prigioniero rispetto al Moro statista? Ma io devo dire che il Moro prigioniero ha avuto, anche per ragioni strumentali, nel senso che i vertici della pubblica sicurezza, del Ministero dell'Interno, gli investigatori fecero in qualche modo apposta a screditarlo, ha avuto una cattiva fama. Le sue lettere sono state interpretate come la figura del timoroso piagnone familista che vuole solo salvarsi la pelle. È difficile capire perché Moro scrivesse così tanto. I brigatisti poi ci hanno consegnato in modi strani, a distanza di tempo, solo poche parti di questo insieme di scritti, molto mutilate da quanto si è potuto ricostruire, per cui è difficile dire appunto quali fossero realmente le sue intenzioni. Mi sono fatto l'idea però che da una parte lui non cedesse mai al ricatto brigatista, cioè fosse rimasto coerente con le sue impostazioni. Non è vero che appunto abbiamo il coniglio che vuole solo salvarsi la vita, bisogna quindi restituirgli in qualche modo la dignità di quell'intervento, e che poi con questo suo diluvio di scritti, le lettere, il memoriale eccetera, lui cercasse in qualche modo di fare quello che aveva sempre fatto, cioè di fare politica, di tentare di fare politica per trovare una via d'uscita a quella situazione tragica in cui si era messo, ma anche in qualche modo per dare allo Stato la possibilità di uscire da quel dilemma fermezza trattativa, che era un dilemma del tutto astratto, perché in realtà lo Stato aveva già ceduto permettendo che lui fosse rapito, quindi si trattava di trovare in qualche modo una via d'uscita a quel cedimento e non tanto di difendere un'immagine astratta di fermezza. Grazie a Guido Formigoni, autore di Aldo Moro, lo statista e il suo dramma. Buona serata. Buonasera a lei, grazie. E una testimonianza anche personale su Moro è quella di Giorgio Balzoni, che Moro conobbe bene, che ha scritto Aldo Moro, il professore, pubblicato dalla Staria, 180 pagine, 15 euro. Abbiamo detto che Moro formò il primo governo di centrosinistra con i socialisti di Pietro Nenni, del quale sono usciti i diari relativi al periodo 1973-79. Nenni, che era del 1891, sarebbe morto l'anno successivo. E sono stati già pubblicati i volumi precedenti, che abbracciano il periodo a partire partire del 1943, e questo volume, che è curato da Paolo Franchi e Maria Vittoria Tomassi, che è la nipote di Nenni, si intitola Socialista Libertario Giacobino, è pubblicato da Marsilio, 512 pagine, 25 euro, ed è un volume molto interessante vista l'autorevolezza, la capacità d'osservazione dell'autore. Libertario Giacobino, dunque, questa fu una definizione che di Nenni diede uno storico socialista, Gaetano Arfè, e al prefatore, che è Paolo Franchi, questo giudizio sembra calzante, e lo spiega dicendo: libertarismo come ispirazione di fondo mai dismessa, giacobinismo come primato dell'iniziativa politica. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci sentiamo fra pochi istanti. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Veniamo adesso alla letteratura, anzi a uno dei grandi maestri della letteratura, cioè William Shakespeare. Vi segnalo un'iniziativa a cui ha aderito per l'Italia la Rizzoli, cioè la riscrittura di grandi opere dello scrittore inglese da parte di scrittori contemporanei in occasione del quarto centenario della morte di Shakespeare, che, come ricorderete, è caduto in aprile. Finora sono usciti due titoli di Howard Jacobson, che è uno scrittore inglese: La riscrittura del Mercante di Venezia, Il mio nome Shylock. Dimenticate qui l'ambiente veneziano, qui siamo in Inghilterra oggi, dove si aggira un fantasma che è appunto Shylock, che diventerà amico di un ricco collezionista d'arte e sarà presto risucchiato nella brillante vita mondana che si svolge in quelle località. Naturalmente Jacobson, particolarmente specializzato in opere nelle quali mette in scena molti caratteri della cultura ebraica, presenta Shylock a dominare il romanzo con le sue riflessioni, le sue storie. L'altro libro è di Anne Tyler, americana, che riscrive La bisbetica domata, che diventa Una ragazza intrattabile. Dicevo che tutti e due i libri sono pubblicati da Rizzoli, costano 19 euro il primo e 19,50 euro, sono entrambi tradotti da Laura Pignatti. Qui la ragazza intrattabile Kate, una fanciulla di Baltimora, figlia di un grande scienziato, che è volitiva e sicura di sé, che il padre vuole a tutti i costi far sposare con il suo aiutante russo, perché questi possa rimanere con lui negli Stati Uniti. Ma Kate forse non ha la personalità e il genio di Caterina, la protagonista della commedia originale. E a questo punto il confettino. Vi propongo un'iniziativa molto simile per i ragazzi, è di Daniele Aristarco, Shakespeare in Shorts. Sono 10 storie di William Shakespeare per Einaudi ragazzi, 206 pagine, 16,90 euro, nelle quali i giovani lettori potranno avvicinarsi ad alcuni dei capolavori di Shakespeare, cioè Romeo e Giulietta, Macbeth, Amleto, Il sogno della notte di mezz'estate, Otello, Racconto d'inverno, Riccardo III, Re Lear, Giulio Cesare e La tempesta. I testi naturalmente sono ridotti per cercare di presentare la straordinaria capacità di Shakespeare di indagare i sentimenti umani. Una donna difficile come la bisbetica domata deve essere stata Caterina Riario Sforza, che visse tra il 1463 e il 1599, che era figlia illegittima di Galeazzo Maria Sforza, duca di Milano, e poi sposa di Girolamo Riario, signore di Imola e nipote del papa, che allora era Sisto IV. Una discendente, Francesca Riario Sforza, ha scritto le gesta dell'antenata nel libro Io Caterina, i miei segreti, le mie battaglie e la mia storia, pubblicato da 446 pagine, 16,90 euro. In effetti le gesta della nobildonna diventarono leggendarie e fu una protagonista della vita politica e culturale dell'epoca, e a un certo punto però la situazione cambiò, perché quando morì Sisto IV il nipote cadde in disgrazia. Addirittura fu rovesciato dalla sua signoria, ucciso, e Caterina guidò la difesa dell'assedio al castello per passare alla storia con questo episodio che è rimasto leggendario, che si verificò quando i suoi nemici la minacciarono di uccidere i figli. La contessa fece tuonare i cannoni su Forlì. Era la dimostrazione che faceva sul serio, casomai ce ne fosse stato bisogno. La notizia si diffuse immediatamente in tutta Italia. Il comportamento di Caterina lasciò allibiti funzionari di ambasciata e cronisti. Nasceva la figura, la leggenda della tigre di Forlì, che non aveva ceduto nemmeno di fronte ai propri figli in lacrime, eppure lottava anche per loro. Raccontarono persino che si presentò sui bastioni e che, fregandosene dei figli in lacrime, si alzò le gonne dicendo che di figli poteva farne quanti le pareva perché aveva lei lo stampo, e che un istante dopo volse le spalle sprezzante ai ricattatori e ai due figli, rimettendosi al sicuro. Con Caterina Riario Sforza siamo nel primo periodo di una delle epoche più significative e scintillanti dell'umanità, il Rinascimento, che dà titolo all'opera di tre docenti universitari, rispettivamente di Napoli, Bruxelles e Roma, e cioè Giancarlo Alfano, Claudio Gigante e Emilio Russo. Il Rinascimento, pubblicato da Salerno, 382 pagine, 19 euro, dove si parla soprattutto del Rinascimento letterario, colto nel periodo che va dal 1494, l'anno in cui Carlo VIII entrò in Italia, al 1595, quando muore uno dei protagonisti del Rinascimento letterario, cioè Torquato Tasso. Sono anni decisivi perché in questo periodo, scrivono gli autori, venne approfondito in maniera decisiva il rapporto con la tradizione dell'antichità, con i modelli letterari ideali che venivano soprattutto dalla latinità, per l'elaborazione di nuovi classici, da Castiglione a Bembo, da Ariosto a Machiavelli. E l'opera si sviluppa soprattutto per temi relativi, per esempio, alla consapevolezza della crisi, che appunto nel 1494 era esplosa, oppure l'elaborazione della nuova lingua, le sedi nelle quali si faceva cultura, il disseminarsi in tutta Italia della cultura rinascimentale. Ma il Rinascimento non fu solo epoca di rivoluzioni culturali, o meglio, furono molti gli elementi che influirono su quella svolta. Per esempio, le scoperte geografiche cambiarono la concezione stessa del mondo fino allora conosciuto. E questo è il tema di un libro di un altro storico, Giuseppe Marcocci, che si intitola Indios, Cinesi Falsari, le storie del mondo nel Rinascimento, pubblicato dalla Terza, 212 pagine, 20 euro. Quando il vecchio mondo scoprì i nuovi mondi, come imparò a dialogare non solo coi popoli, ma addirittura con le storie di quei popoli e l'immagine di quei mondi? Questo è il tema del libro. Nacque da questa sfida, appunto, l'impresa di scrivere storie o una autentica e unica storia del mondo, e ne derivò un dibattito approfondito e continuo. E qui si parla in particolare di quattro di questi tentativi che ci restituirono la meraviglia e per certi versi lo sgomento col quale il Rinascimento cercò di fare i conti con le scoperte geografiche, magari dando vita a iniziative imprenditoriali di successo come quelle dei tipografi veneziani, che si gettarono su questo nuovo genere di libri che diede vita ad autentici bestseller. Naturalmente per l'epoca. La storia, osserva l'autore, insomma, rappresentò una forma di conoscenza che assorbì, filtrò e reinterpretò la novità delle interazioni globali nel Cinquecento, contribuendo a dare loro una collocazione rispetto al passato. Ultimi arrivi. Cominciamo con un nome molto caro ai lettori del Sole 24 Ore, Gianfranco Ravasi, il cardinale biblista che ha scritto Le Beatitudini, il più grande discorso all'umanità di ogni tempo. Qui appunto Ravasi ci introduce al fascino del famoso discorso di Cristo con una curiosità. Questo libro infatti si conclude con un capitolo che riassume in pillole tutti i precedenti. Poi vi segnalo di un grande e raffinato scrittore inglese, John Randolph Ackerley, vissuto tra il 1896 e il 1967, un libro del 1932, Vacanza in Du, tradotto da Franco Salvatorelli per Adelphi, 274 pagine, 18 euro, che racconta l'avventura del giovane e intraprendente ragazzo inglese assoldato come segretario da un marajà, col quale nascerà un rapporto fatto di strane domande, evasive risposte, ma autentica amicizia, che ci danno un quadro insolito e spesso esilarante dell'India negli ultimi scampoli dell'impero. Infine vi segnalo di un noto artista italiano, Antonello Venditti, Nella notte di Roma, pubblicato da Rizzoli, 196 pagine, 17 euro, nel quale il cantautore descrive la sua città partendo da un insolito incidente e descrivendocela in sette vizi, e quello dell'unicità, che è il vizio capitale, la bellezza, il neopaganesimo, l'impero, l'illusione, la memoria corta e la purezza. E con questo ringrazio Luca Cremonese in redazione e Filippo Reggi in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.